Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Il signor John Knightley e consorte non furono trattenuti per molto tempo ad Hartfield. Ben presto il tempo migliorò abbastanza perché chi doveva partire partisse. E dopo aver tentato, come il solito, di convincere la figlia a rimanere con tutti i suoi bambini, il signor Woodhouse fu costretto ad assistere alla partenza dell'intera brigata e a tornare alle sue geremiadi sul destino della povera Isabella. La quale povera Isabella, passando la vita con coloro che adorava, piena delle loro virtù, cieca ai loro difetti e sempre innocentemente indaffarata, avrebbe potuto essere un modello di giusta felicità femminile. La sera dello stesso giorno in cui partirono, recò al signor Woodhouse un biglietto del reverendo Elton, una lunga, compita e cerimoniosa missiva per dire, coi suoi migliori auguri, che si proponeva di lasciare Highbury l'indomani, diretto a Bath, dove, cedendo alle insistenti preghiere di alcuni amici, s'era impegnato a trascorrere qualche settimana. E molto si doleva dell'impossibilità in cui, per diverse circostanze di tempo e di lavoro, si trovava di congedarsi personalmente dal signor Woodhouse, delle cui amichevoli premure avrebbe conservato sensi di profonda e costante gratitudine. E se il signor Woodhouse aveva ordini da dargli, sarebbe stato ben felice di eseguirli. Emma ne fu piacevolmente sorpresa. L'assenza del reverendo Elton in quel frangente era quanto poteva desiderare di meglio, e lo ammirò per averla imbastita, anche se non poteva fargli molto credito del modo come l'annunciava. Infatti sarebbe stato impossibile esprimere risentimento in modo più aperto che in una cortesia verso il padre, dalla quale era così manifestamente esclusa. Nemmeno dei complimenti di apertura Emma beneficiava. Il suo nome era taciuto. E in tutto questo era così palese un cambiamento di tono, vera nella dichiarazione di gratitudine una così goffa solennità di commiato, che a tutta prima le sembrò impossibile che sfuggissero al sospetto del padre. Sfuggirono, tuttavia. Dominato dalla sorpresa di una partenza così brusca e dal timore che il reverendo Elton non potesse mai arrivare sano e salvo al termine del viaggio, il signor Woodhouse non notò nel suo linguaggio nulla di straordinario. Fu un biglietto provvidenziale, perché offrì loro nuova materia di riflessione e conversazione per tutto il resto della solitaria serata. Il signor Woodhouse espresse le sue ansie ed Emma trovò modo di dissiparle con l'usata prontezza. Decise quindi di non tenere più all'oscuro la sua amica. Aveva ragione di crederla quasi rimessa dal mal di gola. Quanto a sé, le conveniva avere tutto il tempo possibile per superare quell'altro scoglio prima del ritorno di Elton. Di conseguenza, il giorno subito dopo andò dalla signora Goddard per affrontare la necessaria penitenza della comunicazione. E fu dura penitenza. Dovette distruggere tutte le speranze che si era industriata di alimentare, apparire nella veste sgradevole della preferita, e riconoscere d'essersi grossolanamente sbagliata in tutte le idee che s'era fatta in proposito, in tutte le osservazioni, convinzioni e profezie delle ultime 6 settimane. La confessione ravvivò la prima sensazione di vergogna, e alla vista delle lacrime di Harriet, Emma sentì che mai più si sarebbe giudicata con benevolenza. Comunque, Harriet sopportò magnificamente la notizia, non biasimando nessuno e dando prova di una semplicità e di una modestia che in quel momento dovevano apparire alla sua amica sotto una luce particolarmente favorevole. Emma era, infatti, in condizioni di spirito tali da apprezzare in pieno semplicità e modestia. E tutto ciò che è amabile, tutto ciò che merita simpatia, sembrava dalla parte di Harriet, non dalla sua. Harriet riteneva di non aver nulla da lamentare. Troppo gran distinzione sarebbe stato l'affetto di un uomo come il reverendo Elton. Mai l'avrebbe potuto meritare. Nessuno, eccetto un'amica della parzialità e bontà di Miss Woodhouse, l'avrebbe mai creduto possibile. Copiose furono le sue lacrime, ma così schietto e naturale ne fu il dolore che nessuna dignità l'avrebbe potuto rendere più rispettabile agli occhi di Emma. ed Emma l'ascoltò e cercò di consolarla con tutto il cuore e l'anima, davvero convinta in quel momento che fra loro due la creatura superiore fosse Harriet e che per la propria felicità e il proprio bene l'assomigliarle sarebbe valso più di tutta la genialità e l'intelligenza. Era un po' troppo tardi per cominciare a prendere un'aria semplice e sprovveduta, ma Emma se ne partì confermata nel proposito di praticare l'umiltà e la discrezione e di moderare per tutto il resto della vita i voli della fantasia. Il suo secondo dovere, appena inferiore a quello di soddisfare le esigenze di suo padre, era di favorire la tranquillità di Harriet e cercare di mostrarle il proprio affetto con un metodo migliore di quello di combinar matrimoni. La fece quindi venire ad Hartfield e la circondò della più costante tenerezza, sforzandosi di tenerla occupata, di svagarla e, mediante i libri e la conversazione, cacciarle il pensiero del reverendo Elton. Un mattino Emma e Harriet avevano passeggiato assieme ed Emma riteneva che per quel giorno avessero parlato abbastanza del reverendo Elton. Non poteva credere che più di tanto il conforto di Harriet o i propri peccati chiedessero e, mentre rincasavano, si industriò di liquidare l'argomento. Se non che, proprio quando pensava di esserci riuscita, scappò fuori di nuovo e, dopo aver parlato di tutto quello che i poveri devono soffrire d'inverno e non aver ricevuto per risposta che un lacrimoso «Il reverendo Elton è così buono coi poveri», capì che bisognava ricorrere ad altro. Stavano appunto avvicinandosi alla casa della signora e della signorina Bates ed Emma decise di far loro visita e di cercare salvezza nel numero. Un simile gesto di cortesia era sempre largamente giustificato. Inoltre, dai pochissimi che presumevano di trovare in lei dei difetti, Emma sapeva d'essere giudicata, sotto questo riguardo, piuttosto negligente e avara del doveroso contributo al fondo dei loro magri svaghi. A proposito di questa sua deficienza, le erano giunti diversi richiami da Mr. Knightley e alcuni dal proprio cuore. Nessuno però tale da controbilanciare la persuasione che si trattasse di un compito quanto mai sgradevole, una perdita di tempo, donne noiose, o l'orrore di trovarsi fra i piedi la minutaglia della popolazione femminile di Highbury che non la smetteva di andarle a trovare. Cosicché, in genere, se ne teneva al largo. Ma ora prese l'improvvisa decisione di non passar davanti alla loro porta senza mettervi piede, osservando, mentre lo proponeva ad Harriet, che stando ai calcoli sarebbero state giusto al riparo da lettere di Jane Fairfax. La casa apparteneva a gente d'affari. La signora e la signorina Bates ne occupavano il primo piano e qui, nell'appartamento di dimensioni molto modeste che per loro era tutto, le visitatrici furono accolte con la massima cordialità e perfino gratitudine. La linda e tranquilla vecchietta, che se ne stava seduta nell'angolino più caldo lavorando a maglia, pretese addirittura di cedere il posto a Miss Woodhouse, e sua figlia, più attiva e loquace, per poco non la soffocò con premure e cortesie, ringraziamenti per la visita, sollecitudine per le loro scarpe, ansiose domande sulla salute del signor Woodhouse, liete notizie su quelle della madre e torta tirata fuori dal buffet. La signora Cole era stata lì un momento prima, una visita di 10 minuti al massimo, ma era stata così buona da trattenersi un'ora e ne aveva presa una fetta e aveva avuto la cortesia di dire che le piaceva molto, cosicché essa sperava che anche Miss Woodhouse e Miss Smith le avrebbero fatto la grazia di mangiarne una. L'accenno ai Cole non poteva non essere seguito da un accenno a Mr. Elton. C'era intimità fra loro e il signor Cole aveva ricevuto notizie del reverendo Elton dopo la sua partenza. Emma capì che cosa bolliva in pentola. La lettera fu riesumata e si prese atto di come fosse via ormai da tempo e la vita di società l'avesse preso e dovunque andava mietesse allori e quanta folla c'era al ballo del maestro di cerimonia. Ed Emma se la cavò a meraviglia, mostrando tutto l'interesse e il compiacimento del caso e facendosi sempre avanti per evitare che Harriet fosse costretta a dir parola. A tutto questo era preparata, varcando quella soglia. ma contava, dato fondo alle chiacchiere intorno al reverendo Elton, di non essere più infastidita da argomenti spinosi e di andar spaziando fra tutte le signore e signorine di Highbury e relative partite a carte. Non prevedeva che Jane Fairfax succedesse al reverendo Elton. Dover usare cortesia per 3 lunghi mesi a una persona che non le garbava, dover fare sempre più di quanto avrebbe desiderato e meno di quanto avrebbe dovuto, a Emma non andava giù. Perché Jane Fairfax non le garbasse è forse una domanda alla quale non sarebbe facile rispondere. Secondo Mr. Knightley, era perché in lei vedeva la giovane donna veramente compita che desiderava figurare ella stessa. E sebbene l'accusa fosse stata allora vivacemente respinta, v'erano momenti di introspezione nei quali la sua coscienza non riusciva del tutto ad assolverla. Ma davvero non riusciva a stringere amicizia con lei. Non sapeva come fosse, ma c'era tanta freddezza, tanto riserbo nei suoi modi. Sembrava così indifferente al fatto di rendersi o no gradita. E poi sua zia era una chiacchierona che non la smetteva mai e se ne faceva tanto chiasso con tutti. E ci si era immaginato che loro due dovessero diventare amiche intime. Poiché avevano la stessa età, ognuno s'era fisso in mente che non potessero non volersi un bene dell'anima. Queste le sue ragioni. Altre non ne aveva. Era un'antipatia così poco giustificata, ogni preteso difetto era talmente ingrandito dalla fantasia, che non vedeva mai Jane Fairfax la prima volta dopo un certo periodo di lontananza senza provare la sensazione di averle fatto torto. E ora, compiuta la visita d'obbligo al suo arrivo dopo un intervallo di 2 anni, fu particolarmente colpita appunto dall'aspetto e dai modi che per quei 2 anni aveva svalutato. Jane Fairfax era molto elegante, notevolmente elegante, e dell'eleganza Emma aveva il più alto rispetto. La sua statura era considerevole, giusto quella che per opinione quasi generale si sarebbe giudicata alta e che nessuno avrebbe potuto giudicare eccessiva. La figura piena di grazia, le proporzioni un giusto mezzo fra grasso e magro, sebbene un lieve accenno di cattiva salute sembrasse indicare il più probabile di questi 2 malanni. Tutto ciò Emma non poteva non sentirlo. E poi il volto, i lineamenti. C'era in tutto l'insieme più bellezza di quanta non ne ricordasse. Una bellezza non regolare, ma molto piacente. Agli occhi, di un grigio cupo sotto ciglia e sopracciglia scure, non era mai stata negata la giusta lode. Ma la pelle, sulla quale Emma era solita cavillare come priva di colore, aveva una chiarezza e delicatezza che davvero non richiedevano tinta più piena. Era uno stile di bellezza in cui l'eleganza era il tratto dominante e come tale Emma, pur con tutti i suoi principi, doveva onestamente ammirarla. Ne vedeva così poca di eleganza, sia di figura che di mente, ad Highbury. Qui era già distinzione e merito non essere volgari. Insomma, durante la prima visita, Emma rimase a contemplare Jane Fairfax con duplice compiacimento, senso di piacere e senso di rendere giustizia. E dentro di sé pensava che non l'avrebbe più guardata di malocchio. In realtà, se teneva conto della sua storia e della sua situazione, non meno che della sua bellezza, se considerava quale destino attendesse tutta quell'eleganza, da quali altezze sarebbe precipitata, che vita le si preparava, non poteva non sentire compassione e rispetto. Tanto più se a tutti i ben noti particolari che la rendevano interessante si aggiungeva il fatto più che probabile di un attaccamento per il signor Dixon, nato in lei con tanta naturalezza. In questo caso, nulla poteva riuscire più degno di pietà o di rispetto dei sacrifici ai quali s'era decisa, ed Emma era ben disposta ad assolverla dall'aver alienato l'affetto del signor Dixon dalla moglie o a perdonarle qualunque malignità eventualmente suggeritale a tutta prima dalla fantasia. Se era amore, poteva essere da parte sua un semplice amore unilaterale e sfortunato. In complesso, Emma la lasciò con sentimenti così addolciti e caritatevoli da esserne spinta a guardarsi attorno nel rincasare e rammaricarsi che Highbury non offrisse un giovane degno di renderla indipendente, nessuno sul quale essa potesse desiderare di far progetti per lei. Prima che Emma si fosse impegnata in pubbliche professioni di amicizia eterna per Jane Fairfax o avesse fatto a ritrattazione dei passati pregiudizi ed errori nulla più che dire al signor Knightley «Certo è bella, più che bella», Jane aveva trascorso una serata ad Hartfield con la nonna e la zia e tutto ripiombò su per giù nello stato di prima. L'antica ruggine riapparve. La zia era noiosa come sempre. Più noiosa, anzi, perché all'ammirazione delle sue qualità si aggiungeva l'ansia per la sua salute. E bisognò ascoltare la descrizione esatta del poco pane e burro che mangiava a colazione e della fettina di montone che mangiava a pranzo e assistere ad esibizioni di nuove cuffie e borse da lavoro per la madre e per lei. E tutto ciò che in Jane urtava riaffiorò. Si fece musica. Emma fu obbligata a suonare. E nei ringraziamenti e nelle lodi che seguirono, le parve di avvertire un'affettazione di candore, un'aria di grandezza intese unicamente a mettere più in luce la superiorità della propria esecuzione. E poi, e questo era il peggio, era così fredda, così riservata. Impossibile capire che cosa esattamente pensasse. Avvolta in un manto di cortesia, sembrava decisa a non arrischiare nulla. Era di un disgustoso sospetto riserbo. Se poteva esservi un più là, dove tutto era spinto all'estremo, Jane era più riservata a proposito di Weymouth e dei Dixon che di qualunque altra cosa. Sembrava decisa a non permettere occhiate indiscrete nel carattere di Mr. Dixon, nel valore che essa attribuiva alla sua compagnia o nell'opinione che dell'opportunità di quel matrimonio poteva avere. Era tutto un approvare e smorzare, nulla di nettamente delineato, nulla di definito. E tuttavia non servì a nulla, fu tutta cautela sprecata. Emma ne intuì l'artificio e tornò ai primi sospetti. Probabilmente c'era da nascondere qualcosa più della propria preferenza. Forse il signor Dixon era stato a un pelo dal cambiare un'amica per l'altra o si era orientato su Miss Campbell solo per amore delle 12.000 sterline a venire. Lo stesso riserbo regnò su altri punti. Lei e Mr. Frank Churchill erano stati nello stesso periodo a Weymouth e che fossero in qualche rapporto si sapeva. Ma non una sillaba di vera e propria informazione sul tipo che Frank era in realtà, Emma poté strapparle. Era bello? Credeva fosse giudicato un bellissimo giovane. Era piacevole? Per tale in genere passava. Aveva l'aria di un giovane saggio e colto? In una stazione termale o in comuni rapporti di conoscenza a Londra era difficile su questi punti farsi un'idea precisa. Tutto ciò che si poteva giudicare con certezza erano i modi, sempre che si trattasse di conoscenza molto più lunga di quella che, a proposito di Mr. Churchill, lei potesse vantare. Credeva comunque che tutti trovassero amabili i suoi modi. Emma non riusciva a perdonarla. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.